Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Magari qualcuno di voi ascoltando ha già capito di cosa parleremo. Questa è la colonna sonora di un movimento internazionale cui oggi aderisce anche l'Italia. Stand as one. Buon sabato, ben svegliati da Anna Migliorati. Il messaggio che c'è dietro riguarda una piccola, grande economia, quella degli spettacoli dal vivo. Ne abbiamo parlato altre volte, quella cosa che la pandemia ha sconvolto, ma che pure era e sarà ancora la colonna sonora della nostra vita. Che fosse musica leggera, jazz, rock, musica lirica, teatro, eventi di piazza. Un mondo e un'economia che sta attorno a noi e colora la nostra vita. E allora magari qualcuno avrà seguito anche il 30 settembre il tingersi di rosso di molte realtà, di molti monumenti in molte città del mondo per dare colore a tutto questo. Ebbene, oggi proviamo a raccontarvelo anche con il suono, perché dietro i grandi nomi e le grandi realtà si nascondono tante storie. Appuntamento italiano oggi a Milano in Piazza Duomo, ma per raccontarcelo abbiamo chiamato uno di questi protagonisti di solito dietro le quinte, tra gli ideatori di Bauli in Piazza, grazie a Tiziano Rossi. Grazie anche a lei. Professione? Un po' di consulenza tecnica per il settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e degli eventi. Dove sarete questo pomeriggio? Piazza Duomo alle ore 17 con la nostra manifestazione Bauli in Piazza. Arriverete coi bauli? I bauli sì, verranno scaricati già dalla mattinata. Quindi tra pochissimo sono già lì i camion. Ovviamente siete artisti, quindi coreografia. Cosa manca in questi bauli quest'anno? Manca il lavoro sostanzialmente, mancano gli eventi e mancano le occasioni per poter continuare a fare il nostro lavoro. I casi stanno però aumentando, diciamo che la socialità di questo tipo diventa anche molto pericolosa. Si può fare in sicurezza? Noi abbiamo iniziato a pensare a questa manifestazione non facendo finta che il problema non esista, anzi abbiamo proprio cominciato dicendo esiste un problema ma dobbiamo trovare una soluzione per poterci convivere, perché altrimenti il comparto collassa completamente. Le possibilità esistono, bisogna sedersi a un tavolo, cominciare a ragionarci e cercare di trovare una sorta di giornata della ripartenza, anche soltanto in maniera simbolica, per cominciare a ragionare su qualcosa di concreto. Qual è il mondo dei lavoratori che ci gira attorno? Allora, stiamo parlando di oltre 570.000 addetti che vanno dai facchini, ai tecnici, ai creativi, ai registi, ai consulenti, agli ingegneri, senza considerare tutto l'indotto di alberghi, ristoranti e trasporti. Quindi stiamo parlando di un vero e proprio comparto produttivo nel nostro paese, produce circa 65 miliardi di fatturato all'anno. Bisogna ripartire, ma bisogna farlo in sicurezza come per tutti. Le attività. Voi avete delle esperienze che a questo punto hanno funzionato, dei modelli da proporre? Sì, ovviamente quest'estate abbiamo visto soltanto piccoli eventi. Però erano all'aperto quelle estive. Però erano all'aperto, certo, quelle estive erano all'aperto. Quello che vogliamo in questo momento è costruire un tavolo per cominciare a fare un ragionamento. Volete un protocollo anche per voi, come può essere per il mondo dello sport? Vogliamo un protocollo sì che sia sostenibile. Appuntamento lo diamo ancora tra poche ore, dove vi trovano? L'appuntamento è oggi pomeriggio alle 17 in Piazza del Duomo, ovviamente a Milano assolutamente. I manifestanti cominceranno ad arrivare un po' prima perché avranno delle convocazioni e noi chiediamo anche il sostegno delle persone che non necessariamente fanno parte del settore ma che hanno voglia di tornare a partecipare ad eventi live, concerti e con distanziamento e mascherina. Con distanziamento e mascherina assolutamente. Together we stand. Mai abbastanza ripeterlo. Primo punto, la sicurezza. Ma non possiamo nascondere che, come per tutti gli altri settori, anche dietro gli eventi, la musica dal vivo, gli spettacoli, le fiere, c'è un mondo, un'intera industria. Autori, tecnici, fornitori di audio, video, luci, facchini. A livello mondiale si stima che circa il 95% degli eventi sia stato cancellato. Per sicurezza, certo, ma da dove ripartire? Questa è una domanda legittima. Come ritrovare tutto questo quando la pandemia sarà passata? We Make Events è nato negli Stati Uniti, ma riguarda anche l'Italia. E allora, facciamo i conti. E salutiamo anche Stefano Locatelli, docente alla Sapienza di Roma, direttore del Master in Economia dello Spettacolo dal Vivo. Perché, come dicevamo, questo grande variegato mondo non è fatto solo di grandi artisti, ma di molti e molti che ci lavorano. Allora, proviamo a capire di cosa parliamo. Benvenuto. Sì, allora, possiamo, sfruttando gli studi, le ricerche del rapporto Io Sono Cultura della Fondazione Simbola, che sappiamo che per quanto riguarda le performing art, che è una categoria dentro la quale mettiamo il teatro, l'opera, ma anche i concerti di musica leggera, per esempio, gli ultimi dati che abbiamo ci dicono che gli addetti totali sono circa 150.000, cioè crescita negli ultimi anni, con un valore aggiunto totale nel 2018 di 8,2 miliardi di euro. È un settore in realtà apparentemente piccolo, ma se facciamo, che so, un paragone per esempio con il valore aggiunto del settore cinema, radio e televisione, scopriamo che il settore performing arts è superiore. Cinema, radio e televisione hanno avuto nel 2018 un valore aggiunto di 7,2 miliardi, quindi parliamo di un miliardo di euro in più all'anno. Quindi, per quanto non appaia, in realtà lo spettacolo dal vivo in Italia vale ancora di più di radio, TV e cinema. Dall'altra parte, come numeri, ci siamo noi, cioè gli spettatori. Sì, a fronte di un aumento progressivo degli addetti del settore performing arts e anche del valore aggiunto, in realtà il numero di spettatori rimane stabile, o meglio, per la precisione, abbastanza stabile o in leggera decrescita per quanto riguarda il teatro, in crescita per quanto riguarda per esempio i concerti di musica leggera. Sostanziale staticità del pubblico negli ultimi anni ci dovrebbe far riflettere. Il Covid di fatto ha fermato tutto questo mondo e non poteva essere altrimenti. Ora si chiede di ripartire, come obiettivo ci si dà in ogni caso comunque il prossimo anno. Non è la prima volta che lo spettacolo si ferma del tutto. Paradossalmente è stato fatto da molti un paragone con la guerra, la seconda guerra mondiale, non solo. Certo, dal punto di vista della precarietà del lavoro ci troviamo in una situazione simile. Bisogna in realtà dire che la fragilità economica, in particolare del settore teatrale, era evidente, eclatante già prima della pandemia. Ricordo soltanto alcuni dati che recupero da una ricerca proposta dalla Fondazione Di Vittorio e che ci restituisce una situazione dell'attività lavorativa e della vita degli artisti quanto mai deludente dal punto di vista economico. Per esempio, sappiamo che pre-Covid, stiamo parlando del periodo pre-Covid, i lavoratori nel campo delle performing arts con contratto a tempo determinato erano circa l'80%, il 10% stagionale, il 10% stabile, ma quello che aveva fatto più impressione era il numero medio di giornate lavorate, pari a 34, top da parte di registi e sceneggiatori con 134 giornate lavorate, mentre gli attori si fermavano in media a 14 giornate lavorate all'anno, e soprattutto la retribuzione media annuale era soltanto di 5.430 euro a persona, retribuzione media annuale. Molti degli addetti del settore di fatto avevano già allora altre attività, già svolgevano altre attività per poter vivere, ed è una tipicamente italiana. Ecco, col teatro non si mangia ancora nel nostro paese, Covid o non Covid. Sì, che mediamente di teatro non si vive. È una caratteristica, giustamente, come ci ricordava, molto italiana, così come è molto italiana la caratteristica di come sono finanziati la maggior parte dei nostri teatri. Il finanziamento pubblico che viene erogato prevalentemente attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo privilegia ancora oggi di fatto la lirica, del circa il 60% del Fondo Unico per lo Spettacolo va alle fondazioni lirico-sinfoniche. In qualche modo è un retaggio storico il nostro da questo punto di vista. Sì, certamente. Si parla di digitale e abbiamo visto che in periodo di lockdown non è così incompatibile con certe forme d'arte, seppur ovviamente non può essere il primo canale. Si parla di nuove forme di finanziamento. Da qui si può ripartire? Certamente il teatro in streaming non si può fare. Non si può fare nel senso che il teatro inevitabilmente è fondato sulla relazione. D'altro canto però abbiamo capito che insomma tutta una serie di cose però si possono fare, sono state fatte. Io non penso che si possa arrivare ad una piattaforma tipo Netflix della cultura, insomma su quello la vedo molto difficile pagare 11,90 € per vedere gli spettacoli in televisione. Però queste forme ci hanno fatto capire che forse dobbiamo tornare a riflettere su qual è la vera natura del teatro, che c'è tutto quel settore che utilizza gli strumenti del teatro per finalità sociali, di cura anche, è sempre più rilevante e non a caso il codice dello spettacolo già prevedeva, mutuando la riforma per esempio del terzo settore all'interno delle sue maglie. Attendiamo con pazienza ma anche con trepidazione i decreti attuativi, sperando in una grande riforma del sistema. Grazie, nel frattempo un po' di musica ce la regaliamo ancora così. Alla prossima storia, alla prossima economia, vi ricordo ci trovate sul nostro sito radio24.it, l'economia delle piccole cose, per riascoltare le nostre storie e per scriverci e mandarci i vostri suggerimenti. Ancora un saluto da Anna Migliorati, a sabato prossimo. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.